forse pioverà. Anche l'ombra cerca via d'uscita, seduta. Le parole prima o dopo si riavvolgono, è tutto così uguale. E quando sei alla fine sai la differenza tra voler bene e amare. Lo specchio riflette il mio sguardo, ma io non aspetto. Le passeggiate al mare a piedi nudi a dicembre, le foglie calpestate da un ricordo che ho in mente, ferite aperte da parole chiuse dal tempo. E poi, riuscire a stare bene nonostante le assenze, cercare nel colore dei tuoi occhi speranze, che torni ieri dove non c'eri, i miei pensieri trasportati dal vento. Gli occhi e vedo spazi immensi, deserti. Qualche goccia scivola sul finestrino, sta piovendo già. Passo il verde, sto prendendo il volo, chi mi incontrerà? Lo specchio riflette il mio sguardo, ma io sto correndo. Le passeggiate al mare a piedi nudi a dicembre, le foglie calpestate da un ricordo che ho in mente, ferite aperte da parole chiuse dal tempo. E poi, riuscire a stare bene nonostante le assenze, cercare nel colore dei tuoi occhi speranze, che torni ieri dove non c'eri, i miei pensieri trasportati da...